Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Siamo la coppia più bella del mondo. E ci dispiace per gli altri che sono tristi perché non sanno più cos'è l'amore. Il disegno politico che c'era era quello di non fare nessuna legge. L'obiettivo era la melina, come quando una squadra si chiude a catenaccio e cerca di portare a casa lo 0-0 e passa il tempo e sei a 10 minuti alla fine dicendo prima o poi lo faccio il gol e vedi che questi continuano a chiudersi. Mai l'ha detto lui, siamo la coppia più bella del mondo. Poi saranno tanti i temi da affrontare anche con riguardo alla possibilità o meno, per esempio, di adottare per i single o per le coppie di fatto, e siccome il tema è comunque molto complesso, il Partito Democratico ha già convocato nel suo gruppo alla Camera un'assemblea per martedì. Ti stancassi un giorno di me, ricordati sempre di quella bambina. E allora ci vuole un colpo per risolvere la partita, se no non la vinci. E se noi avessimo fatto 0-0 sui diritti anche in questa legislatura, ci sarebbe stato semplicemente da vergognarsi. Sei forte per questo, così tu mi vai. Siamo la coppia più bella del mondo. Forza ragazzi! Sono le 6:31 minuti e ci sono tante notizie. Prima fra tutti l'avete sentito nella notte, pochi minuti fa per la verità, ce lo siamo scavati via dalle balle. Leonardo DiCaprio ha vinto l'Oscar e quindi basta polemiche che non mi riguardavano per quel che posso dire, ma insomma... Ha vinto, ce l'ha fatta. Come ha vinto anche Ennio Morricone. Ha vinto il nostro Ennio Morricone per il film di Tarantino, colonna sonora. Dai, un po' di orgoglio italiano, su. Sì, cos'è che ha detto? Buongiorno, signori. Buonasera, forse ha detto. Vabbè, ha vinto Ennio Morricone, ha vinto Leonardo DiCaprio, così potete andare a letto tutti tranquilli, quelli che hanno seguito la nottata degli Oscar. And the Oscar goes to... to? Leonardo DiCaprio. Eccolo. Il vincitore più annunciato della storia del mondo. Se non vinceva questa volta, Luca Dini aveva detto che si dimetteva da direttore di Vanity Fair, ha subito twittato dopo un secondo, secondo me con una gocciolina di sudore che gli scendeva dalla fronte, dice ha vinto Leonardo DiCaprio. E quindi siamo tutti contenti. Ma dai, la notizia che è anche l'apertura di Corriere, Repubblica, notizia che fa più discutere, non negatelo. È la notizia di Niki Vendola che è diventato papà. Con la maternità surrogata, con il suo compagno in America, il suo compagno Ed, hanno un figlio. La notizia ieri è apparsa su Libero, probabilmente doveva rimanere ancora un po' segreta, ma è uscita e poi c'è stata la conferma. Oh ragazzi, a parte che sui social network se ne sono sentite e viste di tutti i colori, come spesso succede, eh? Comunque, saluto il nostro ascoltatore che ci segue da Merate. Cioè, ma vi rendete conto? Merate. Quanti weekend ho passato a Merate quando ero piccino da mio zio. Riccardo ci saluta, salutiamo tutti, come Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Dai, apriamo subito il Parlamento, perché voglio salutare anche vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Intanto Vladimir Luxuria, buongiorno Vladimir. Vladimir è una persona molto sensibile, si sa, ha un sentire sa. Come dire delicato, si sa. È la nostra sigla. Vero. È l'intercettazione questa? No, non lo so, sì, è l'intercettazione di Obama. Dite allora ai servizi segreti americani che non si trattava di Luxuria ma di Putin. Putin. No, diciamolo, specifichiamolo. Però per noi è la tua sigla ormai, è la tua sigla. Va bene. La nostra Vladimir Luxuria insieme al quasi omonimo candidato sindaco a Roma, Carlo Rienzi. Carletto Rienzi, buongiorno. Però ho sentito subito la candidatura alla prima conferenza. La mia non è una candidatura, è una provocazione. Ma come una provocazione? Ma che vuol dire una provocazione? Ma intanto il programma lo stanno recependo tutti, vediamo. Non è una provocazione, è una candidatura. Stiamo raccogliendo le firme. Vediamo il tipo di adesione che c'è nella gente. Ma si candida o no? Sì. Lei, se fosse a Roma, sì, tra Raggi e Rienzi, tra Giachetti e Rienzi, chi potrebbe? Ma Rienzi tutta la vita. Ma allora, tutta vedi la vita. C'è un motivo? Anche tra Bertolaso e Rienzi. Così giusto, dimenticavo Bertolaso. Anche tra tra Mascia e Orso. Mascia e Orso, il migliore è lui. Vladimir, ma l'hai vista questo? Sai chi è Mascia? Quello dai del... Ma certo che lo so, Mascia è l'orso che deve sopportare le angherie di una piccola bambina russa, anche lei. Sì, certo. No, ma Gianfranco Mascia, quello del Popolo Viola, eccetera, ne hai sentito parlare? Quello che manifestava un po', fa una sorta di... fa manifestazioni ovunque. Dai, ma sei di Roma, non hai mai sentito parlare Gianfranco Mascia, che protestava contro Berlusconi, il Popolo Viola, non hai mai sentito parlare. Vabbè. Si candida Gianfranco Mascia, sì, e va in giro con un orso. E perché? Perché sono Mascia e l'orso. Ma è un genio. Cioè, un orso di peluche, non è che si candida così. Sono Mascia e l'orso. E tu puoi votare chi vuoi. Se... Abbiamo visto già altri candidati, altri politici che sembravano più l'ultima volontà di Disney che qualcun altro, quindi sì. Va bene, accettiamo anche questa, insomma. Vabbè, ho capito. Comunque Rienzi si candida o no? Non si è ancora capito, stiamo valutando, raccogliendo. Questo è un po' come una cosa di Di Pietro. Ma allora, ma ci candidiamo o no? Tra un po' sono finite le elezioni. Ci candidiamo se c'è consenso. Ma volevo chiedere alla Luxuria, lei chi potrebbe tra la Raggi e Giachetti e Rienzi? Ecco, appunto. Ma guarda, io non ho ancora, sono ancora, aspetto ancora nuove sorprese, perché qui ogni giorno... Devi dire Rienzi. Può benissimo dire Giachetti, può benissimo dire Raggi. Ma no, ma devi dire Rienzi, e qui... No. Oppure allora, se mi dice cosa hanno fatto Raggi e Giachetti per Roma negli ultimi 10 anni. Ecco. Vabbè, la Raggi adesso, aspettiamo, non è ancora... Rienzi. Cosa ecco, ha Rienzi. Fatto Codacons negli ultimi 10 anni. E sono già due voti, Rienzi, Hai visto? Noi lo facciamo per vedere la candidatura, insomma. Vabbè, ma comunque parleremo della candidatura, ma, cara Vladimir, lo sai dove dobbiamo andare, Dobbiamo andare su Vendola. Io lo dico da giorni, in maniera pubblica. Io sono contrario a questa pratica. Cioè, secondo me dovrebbe essere vietata ovunque. Però, siccome io non faccio le leggi manco in Italia, ma non le faccio, e soprattutto in Canada, negli Stati Uniti e dove è consentita, accetto il fatto che ci sia. Però, insomma, Vladimir Luxuria ha un figlio, Niki Vendola, col suo compagno. Tutto a posto così? Allora, io sono contraria all'utero in affitto, perché per me l'utero in affitto per lo sfruttamento delle donne è una pratica orrenda, ma sono favorevole alla gestazione per altri. Cioè, in queste Canada o la California, che non sono esattamente delle nazioni selvagge, sono delle nazioni dove questa pratica è consentita con un protocollo molto severo dove non c'è la questione di una donna che si vende o di figli che si comprano, perché altrimenti se dovessimo pensare al fatto che i figli si comprano, cioè pratiche dove c'è un costo, anche l'adozione è una pratica molto costosa, dovremmo dire che anche lì si tratterebbe di figli che vengono comprati. Donne che decidono di farlo con l'autonomia, decidendo sul proprio corpo, non facendolo per motivi di soldi, ma facendolo perché ci credono, per me è un po' la stessa filosofia della donazione di organi. Molti non riescono a credere che ci siano alcune donne che siano disposte a farlo, ma io vi assicuro che se per esempio questa pratica fosse consentita in Italia, avremmo anche tantissime sorelle di gay, avremmo tantissime amiche di gay che sarebbero disposte a farlo. Che tra l'altro, per esempio, che questo non è consentito in Italia, ci sono solo due nazioni generalmente dove si può fare per i gay, che sono la California e il Canada. No, ma allora che sia una situazione diversa rispetto a quei paesi dove c'è lo sfruttamento, non so, penso all'Ucraina, in India, dove io immagino che alcune donne lo facciano anche per disperazione, quella è una pratica orrenda, assolutamente, cioè perché vuol dire proprio sfruttare la disperazione di una donna per... io non lo so, rimango contrario, ma per una mia posizione personale. Certo, sono convinto che sia fatto con una donna che ha totalmente in libertà abbia scelto di fare questo. Che ci sia una dazione di denaro, anche questo è vero, ma giustamente dici tu, anche per chi fa le pratiche per l'adozione ci sono... Sì, sono, ma sono quando costosi. Uno sente queste cifre pensa che siano dei soldi che vanno alla donna che gestisce per altri. Ricordiamo che invece sono cifre che servono intanto soltanto per andare a Los Angeles, in California. Ma ci sono avvocati da mettere in mezzo, ci sono contratti da fare. Quindi non capisci, dice... che però è proprio qui la critica, cioè diventa tutto contrattabile, tutto mercificabile, tutto da mettere nero su bianco anche un bambino. Questa è la critica che viene fatta, no? In maniera più chiara. Io continuo a dire che sono nazioni dove queste donne vengono sottoposte a test psicologici, sono donne che devono già aver avuto dei bambini, sono donne che in realtà non desiderano avere altri bambini, quindi in realtà non portano in grembo il proprio figlio e tra l'altro è l'ovulo fecondato di un'altra donna, quindi anche da un punto di vista di patrimonio genetico non c'entrano nulla, non sono neanche... bimbi o bimbe che proprio, le somigliano. Esatto, detto quindi, in maniera brutale, prestano l'utero, ma lo so, capisco che è brutta, però è così. Avvocato Rienzi, lo farebbe questo tipo di business da avvocato negli Stati Uniti? No, io non lo farei, però so che ho studiato i nuovi diritti, cioè adesso c'è il diritto di morire, per esempio, che prima non c'era, con l'eutanasia in tanti paesi. Comincia pure da noi, dai nostri confini, quindi il diritto di nascere, ecco, di avere un figlio, però ecco, quello che deve essere chiaro è che è un diritto a metà, perché non si può violentare la natura, quindi è una combinazione commerciale che mette insieme il mio desiderio, il mio diritto tra virgolette e il bisogno di solito di altre persone. Purtroppo chi non è d'accordo deve prendere atto però che questa cosa nel mondo ormai esiste, cioè questi diritti vengono affermati. Soprattutto bisogna prendere atto di una cosa, cioè che ormai questo figlio c'è, si chiama Tobia Antonio. Pensate un po', oggi sulla stampa, sapete chi è che si dimostra meno aggressiva rispetto a quello che uno si sarebbe aspettato nei confronti di questa notizia? Cara Vladimir, Daniela Santanchè, che dice sulla stampa, dice benvenuto piccolo Tobia, cioè che dobbiamo fare? Il bambino c'è adesso, non è che bisogna accanirsi nei confronti di un bambino, certo pur rimanendo contraria a questa pratica, dice le cose, però il bambino adesso c'è, adesso ci manca solo che rimanga vittima un povero bambino che non c'entra niente. Esatto, è venuto io credo al mondo. Che la bocciatura della stepchild adoption sia stato proprio un po' accanirsi su questi bambini, cioè vendicare su questi bambini il disaccordo su queste pratiche. Cioè un conto è dire io non sono d'accordo, altro conto è pensare che questi bambini già ci sono e hanno diritto ad avere magari più di una figura che possa... Vedi che però lo dici anche tu, che la stepchild serviva a quello. Poi dopo vedi, ti attiri le critiche di chi dice volevano la stepchild per andare poi... No, l'adozione del configlio serve a dare i diritti al bambino, cioè diritti al bambino di avere più di una persona che si possa prendere cura di lui e di non rimanere orfano se il genitore biologico viene a mancare. Sì. E quindi mi piace questo augurio che ha fatto Daniela Santanchè da parte di, ovviamente, due persone, una la conosco anche, che conosco anche personalmente, e io ho il sospetto, ma non la certezza, che magari Niki possa anche pensare di lasciare la politica o addirittura può anche essere, di trasferirsi in Canada per... Ma tu lo sapevi? Tu la sapevi questa cosa, questo desiderio? Cioè sapevi che stava facendo Sapevo che Niki voleva diventare papà. Ma no, ma sapevi che lo stava proprio facendo? No, questo no. Ecco, perché se no ce lo potevi dire. Voglio dire. Vabbè, ma saranno pure fatti suoi. Ma no? Sì, lo so. Però Rienzi, qua avevamo una notizia e ce l'ha nascosta per 9 mesi Vladimir Luxuria. Cioè, vi rendete conto? È un po' come la vicenda di Pietro, è un po' come la vicenda... se si candida un Rienzi, meglio averlo saputo dopo, dai, su. Sì. Ma sì, è chiaro. In realtà si sapeva, si intuiva, però si è saputo dopo. Senti qui su WhatsApp al 349-238-6666 i nostri ascoltatori, pochissimo fa. Vota Carlo Rienzi, la I che fa la differenza. C'abbiamo lo slogan, Rienzi. C'abbiamo lo slogan. Allora, abbiamo il diserbante nel piatto. Parliamo di cose serie. Oh, adesso il candidato sindaco di Roma. Se diventa sindaco di Roma, vi toglie il diserbante dal piatto. Allora, il Corriere della Sera oggi dice che il glifosato, praticamente utilizzato in 40 anni nel mondo, sta dappertutto nell'agricoltura ed è un diserbante pericolosissimo. Vietiamolo. Ma cosa c'entra col sindaco di Roma? Cosa c'entra con... siano problemi. Sì, o no? Ma cosa c'entra col sindaco di Roma, però? Ma perché che c'entra? Ma che c'entra il sindaco di Roma? Secondo voi deve fare che cosa? Solo le buche? No, allora andiamo poche pagine appresso e vedete che le buche venivano riempite con bitume inesistente per dare soldi agli appaltatori e tacere sul fatto che non facevano le riparazioni. Adesso noi abbiamo un'azione di una class action di tutti i motociclisti, 500.000 romani, perché muoiono sulle buche della città. E tutti quanti dicono i candidati bisogna tappare le buche, ma nessuno dice come. Ecco, cari centauri, dopo il traffico, tra un attimo, per l'appunto dopo il traffico, Carlo Rienzi, candidato sindaco di Roma, ci dirà come, in caso di vittoria a sindaco, tapperà le buche, tra poco. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. Insomma, dopo i diesel truccati abbiamo anche la birra al diserbante. Questi tedeschi sono diventati proprio tutto salciccia, crauti e mandolino, eh. Ora sì che funziona la meritocrazia. Tutti i politici sottoscali. Grande Milan! Alino migliore mane sul volante, ma qua mi cascai coglioni, vecchio. A siamo messi mal, vecchio! Oh Milan, non si rompe più i coglioni con questo Pesaloso, tutta la mattina che rompi le palle, ma la fai finita per piacere. Pesaloso è come merdoso, è uguale, abbi pazienza. Vedi intanto Rienzi che alcuni sulla birra al diserbante sono sensibili. Hai visto? E poi Petaloso ci ha rotto veramente, posso dimurire. Non so, tu Vladimir Petaloso lo usi? Io stavo spaccando dei vetri quando ho letto degli articoli su Petaloso. Tu? Io la mattina presto, quando voi mi chiamate, che mi guardo allo specchio, più che Petalosa mi sento Spampanosa. Spampanosa. Inventiamo un c'è l'asta dell'eredità della Pampanini dopodomani, eh? Ma che c'entra? Che c'entra? da Spampanosa sul Corriere della Sera per tutta la storia di questa bravissima attrice. Vabbè, però qui bisogna capire come sistemerebbe le buche il sindaco Rienzi, La I che com'è che è lo slogan? La I d'Italia. La I che fa l'Italia. Proviamo qualche slogan adatto, eh? Esatto. Ma comunque... le buche si sistemano perché c'è una legge del 2009 che prevede che un'associazione o anche dei singoli possano diffidare l'amministrazione a ripristinare i livelli di servizio pubblico che sono carenti. Senti, in questo parla caso come un sindaco, non ho capito niente. Parla come un sindaco, non ho capito quasi niente. Cioè. Ah, beh, allora, praticamente è una diffida che abbiamo fatto, questa parte domani, al comune di Roma, sì, a Tronca, per ripristinare il servizio di manutenzione delle strade entro 90 giorni. Entro 90 giorni? Altrimenti lo farà un commissario nominato dal TAR. Che facciamo? Un commissario del Commissariamo il commissario! Ma è straordinario! Un commissario al quadrato! Un commissario al quadrato! Ma è bellissimo! Vladimir Luxuria, questa non l'avevo mai sentita. Vuole il commissario al quadrato. Quello risolverà tutto per forza. Soprattutto perché i fondi ci sono. Il commissario del commissario fatto dal tribunale, sì, immaginiamo che non si farà corrompere, almeno quello. Non lo so, fatti corrompere tutti. E se no andremo dal giudice al cubo. Nel programma elettorale mio, sì, 100 ingegneri che dividono la città in 4 macro aree, e se le strade riparate si rompono, cacciano i soldi di Tascalone. Questa era bellissima, l'avevo sentito. Tutti a fare gli ingegneri a Roma, mi raccomando, c'è un bando. Altro che in Argentina, sai che in Argentina si è vero. Tu lo faresti, Vladimir, a questo punto, l'ingegnere a Roma? No, grazie. Ognuno deve fare il suo lavoro. Però io lo trovo anche abbastanza giusto. Ti danno una bella zona di lavoro, sbagli e paghi, vai in galera. Ma basta che controlli, no? Se controlli che il bitume che mettono è quello giusto, la quantità giusta, nel momento giusto, eccetera, eccetera, la strada non si rompe più. Dai, che ci vuole? Insomma, no, effettivamente le buche sono un bel problema. Grosso, soprattutto dopo che piove, già immagino oggi, meno male io ho la macchina, non vado con il motorino, non è la pioggia, la colonna è la schiena, no, perché non si vede con la pioggia, non le vedi neanche le buche, no, perché vedi certo, l'arco, certo. Vabbè, ma io vorrei capire adesso, la Vladimir Luxuria, seriamente chi voterai a Roma? Senti qua, allora ti faccio sentire un paio, Irene Pivetti. È rispuntata, tra l'altro ha fatto la Lega, ha fatto le primarie oggi alle 13, Salvini dirà chi è il candidato, perché non gli sta bene Bertolaso. Berlusconi ha già definito tutto una paglia. Questo per dire come del centrodestra siano sereni, no? Irene Pivetti. Prima cosa che farei a Roma, guarda, io farei le grandi opere della quotidianità, che vuol dire sistemare le strade, dare una pulita al verde pubblico, una bella pulita proprio una bella pulita, perché quello intanto va ridata a questa città, una bella pulita, lo smalto normale. Il programma c'è, Vladimir. Un po' casalinga. La Raggi, Virginia Raggi, Movimento 5 Stelle. Una città che è stata stuprata per anni da una cattiva politica e da una cattivissima amministrazione, purtroppo guidata da una politica i cui interessi non erano quelli dei cittadini. Vabbè, qui siamo alle macerie. Roma quindi è da ricostruire. Chissà se con lo studio breve ti ha fatto qualche causa in difesa degli appaltatori, gli appaltatori imbrogliuti. Ma no, ma anche sta storia, perché non ha lavorato con Previti, ha lavorato col ha fatto non lo lavo neanche lavorato. Ma è una bravissima ragazza, solo ha che fatto non, la Roma pratica, non niente, credo. Poverino. Non sa niente, ma che non lo so. È tanto bravo. Magari non ha fatto mai niente per Roma, però speriamo che lo faccio. Vabbè, tu Vladimir, fine, chi va? Voti? Chi voti? A parte Rienzi. Ma, sì. Tutte e due, vabbè, a parte Rienzi, sinceramente per il momento non c'è nessuno che mi convince, si può dire? Sì. Hai visto? Che dicevo io? ho capito, arriva Rienzi adesso, arriva anche Rienzi. Perché c'è il 40% che non vota proprio perché per quello che ha detto Vladimir Luxuria. Non è contento. Ma Vladimir, ma mi fai capire se sei rimasta delusa o contenta da questa legge Cirinnà, che poi non è più Cirinnà, ex Cirinnà, non lo so. Ma all'inizio ero veramente molto incazzata, perché come sono andate le cose, perché ci hanno tolto anche il piacere di festeggiare, perché proprio lì per lì che sembrava che era fatta, poi c'è stata la questione del super canguro e quindi alla fine si è stati costretti a votare la legge che è un po' monca, diciamo così, soprattutto su quella step child adoption di cui così si è tanto parlato, no? Però io dico una cosa, partiamo da quello che abbiamo ottenuto per continuare la nostra battaglia per l'uguaglianza totale. Ma un figlio, tu lo vorrai mai, un figlio? Ma io ho 50 anni adesso. Ho capito, Vendola ne ha 60 quasi. No, io no, personalmente no, adesso no. Non è nei miei pensieri. No. Non è nei tuoi pensieri, va bene, va bene. Perché sai, il figlio bisogna innanzitutto desiderarlo, Quando desideri un figlio è già come se in qualche modo stai cominciando ad averlo, e quindi non, in questo momento non è, cioè, non è nel pensiero. Però vorrei un parere invece dall'avvocato Rienzi su questa storia dell'obbligo di fedeltà. Sapete che hanno tolto l'obbligo di fedeltà per le coppie omosessuali, no? Nella legge Cirinà. Allora Scalfarotto, sottosegretario, no, vice ministro, sentite che dice. Ma innanzitutto io personalmente sono dell'opinione che l'obbligo di fedeltà vada tolto anche dal matrimonio, nel senso che mi pare una sorta di residuato medievale, l'equivalente giuridico della cintura di castità. Avvocato Rienzi, ha sentito, togliamo tutto, è come la cintura di castità l'obbligo. L'obbligo di fedeltà sta nel codice civile del 1942. Viene letto al momento del matrimonio, eccetera. Però mi sembra che effettivamente l'obbligo più importante sia quello di assistenza reciproca. Cioè, l'obbligo di fedeltà è un po' ridicolo, cioè metterlo all'interno, certo, metterlo da una parte e toglierlo dall'altra è assurdo, perché o tu riconosci la coppia come parità, e quindi fanno bene a incazzarsi quelli che sono contro l'averlo tolto, sì. Ma nella sostanza è come se, che ne so, il delitto d'onore fosse stato recuperato per una categoria piuttosto che per un'altra, cioè per le coppie di fatto vale il diritto d'onore o non vale, cioè sono dei residui effettivamente molto antichi che non hanno più nessuna rilevanza. Via, quindi facciamo Carlo Rienzi sindaco, mettiamo le buche, via la fedeltà e via. Io quando ho sentito di questa cosa qui ho detto Alfano ha voluto il contentino, ha voluto semplicemente dire che in realtà votiamo una legge, però questi gay in fondo sono dei zozzoni, mentre gli etero che si sposano sono tutti fedeli. Ma poi ho detto, ma ho avuto il sospetto che invece non è che facendo così mina quel concetto di stabilità affettiva per quello che riguarda le decisioni dei tribunali dei minori su, no, sull'allargamento delle adozioni, figli del padre. Invece poi mi sono informata e mi hanno detto che effettivamente è solo una cosa formale. Cioè lui si è accontentato di questo e quindi sappiamo così, tutti non che è come la famiglia, insomma. Basta promettere a qualcuno ti sarò fedele che lo sarai. E va bene, approfondirai tutto alle 9 come sempre su Radio Capital, il GECO, la farfalla, lo voglio ricordare, Vladimir Luxuria, mentre approfondiremo con Carlo Rienzi, la I che cambia l'Italia, candidato sindaco e presidente del Codacons. Alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta 1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari amici, le 7:17 minuti e la 148esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, che è già cominciata da un bel pezzo. Intanto sono stati già assegnati gli Oscar, Ennio Morricone ha vinto l'Oscar, Leonardo DiCaprio, annunciato da nessuno, ha vinto l'Oscar. Pratica archiviata. E potete andare avanti in questo anno bisesto, anno funesto, 29 febbraio oggi, 29 febbraio, ma non porta sfortuna. Essere superstiziosi porta sfortuna. Essere superstiziosi, ricordate, porta sfiga. Non il 29 febbraio. E allora siamo pronti a leggere i giornali? Dai! Se non si è capito è lunedì, se non si è capito è il 29 di febbraio 2016. Allora i titoli, il Sole 24 Ore apre sugli statali, corsa ostacoli per i nuovi contratti. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre la vicenda di Niki Vendola, genitore, da cui aprirò tra poco con la lettura l'approfondimento, è l'apertura per il Corriere della Sera. Vendola genitore, un caso politico, lui è solo amore. Il Messaggero, adozioni gay, il caso che divide, nasce negli Stati Uniti con maternità surrogata al figlio di Vendola. Repubblica invece, sulle tasse si accelera, obiettivo l'IRPEF e le buste paga. Anche Libero apre sulle tasse, ma in modo diverso, una guida per i pensionati e non solo, come fuggire dall'avidità del fisco. Vien voglia di scappare all'estero? Ecco i paesi dove andare. Spagna, Portogallo, fino al sogno di una villa in Thailandia. La Stampa invece: profughi, il Papa striglia l'Europa. Il Fatto Quotidiano: banche, ora gli espropri facili, proteste contro il governo anche dai parlamentari del PD, non passerà questa idea dell'esproprio facile. L'Unità invece apre con un go Hillary, Hillary Clinton che stravince nel South Carolina, ora vola verso la nomination democratica. E a proposito di presidenziale americana, il titolo del giornale è questo: il duce corre per la Casa Bianca perché Trump cita Mussolini e scoppia la polemica. Come vedete, ci si esercita con aperture diverse, ma certo la notizia che ieri ha diffuso Libero come scoop in anteprima e che poi è stata confermata in giornata della nascita del figlio di Nicky Vendola negli Stati Uniti è la notizia che diventa anche una notizia politica, non è solo un fatto privato, perché chiaramente tutto va a innescare un procedimento di dichiarazioni, contro dichiarazioni, anche devo dire tanto scempio che si vede, come spesso accade sui social network, con degli insulti veramente volgari e ripetibili. Comunque Vendola si difende così. Oggi Giacomo Amadori su Libero pagina 4, lui che ieri ha dato per prima la notizia, torna e il titolo di Libero è figlio di una storia d'amore. Vendola si difende dagli insulti. Come scrive Libero, il problema per Vendola sarà farsi riconoscere il papà ufficialmente, perché il papà biologico è il suo compagno Ed, canadese. E però hanno fatto ricorso alla maternità surrogata, secondo indiscrezioni, un ovulo fecondato poi impiantato in una donna pare indonesiana che ha portato avanti per 9 mesi la gravidanza per Nicky Vendola di fatto e per il compagno. Il problema sarà farsi riconoscere papà ufficialmente in Italia. Infatti in Italia il DDL Cirinna, scrive Libero, come sapete, prevedeva l'adozione del figliastro, la famosa ormai celebre stepchild adoption, per le coppie omosessuali, ma è miseramente naufragata questa ipotesi. Questo tipo di adozione introdotta per le coppie eterosessuali non sposate nel 2007 e se fosse stata estesa ai gay avrebbe risolto tutti i problemi di Nicky, anche il problema dell'età avanzata. Infatti Vendola non avrebbe potuto avviare le pratiche per un'adozione internazionale per motivi anagrafici. In questi casi la differenza di età tra l'adottante e l'adottato non può superare i 55 anni. Vendola ne ha già 57. Ecco perché l'unica speranza di diventare padre per lui è quella di avere un figlio biologico o adottare quello del compagno. La seconda strada è quella che sembra aver scelto, ma tramontata la Cirinna deve sperare di trovare un giudice di buon cuore che gli riconosca gli stessi diritti garantiti alle coppie eterosessuali dal decreto del Presidente della Repubblica numero 108 del 2007. Ovviamente le polemiche per questo figlio che si chiama Tobia Antonio. Antonio, tra l'altro, fan sapere, è il secondo nome omaggio alla mamma Antonia dell'ex governatore della Puglia. Il caso di Vendola che diventa padre, Salvini lo attacca per primo, disgustoso egoismo, mentre l'onorevole Gigli si distingue per questa accusa, ha fatto uno sfruttamento proletario. Nicky Vendola, come si difende? Ufficialmente non grandi dichiarazioni, ma fa un comunicato. Un comunicato, anche perché la notizia, secondo lui, doveva rimanere un po' segreta, però, come scrivono tutti i giornali, Terlizzi ha parlato. Qualcuno, quando lui ha fatto sapere è nato il figlio, a Terlizzi, paese natale, ha parlato. Comunque, Nicky Vendola, pagina 9 del Corriere della Sera. Nicky Vendola tace per tutto il giorno, poi si fa sentire a sera, anche per il fuso californiano, con una nota agrodolce. Non c'è volgarità degli squadristi della politica che possa turbare la grande felicità che la nascita di un bambino provoca. Questa è la nota che vuole un po', segue un po' la canea scatenata sul web dalla notizia della nascita di Tobia Antonio. I due avevano confidato agli amici: siamo pazzi di felicità, volevano che la notizia rimanesse in qualche modo ancora per qualche tempo segreta, ma ora è il momento, scrive il Corriere, di replicare a quelle che vengono definite le volgarità degli squadristi. La nota prosegue: condivido col mio compagno una scelta e un percorso che sono lontani anni luce dall'espressione utero in affitto. Questo bambino è figlio di una bellissima storia d'amore. La donna che lo ha portato in grembo e la sua famiglia sono parte della nostra vita. Quelli che insultano e bestemmiano nei bassi fondi della politica e dei social network mi ricordano quel verso che dice: ognuno dal proprio cuor l'altro misura, anche se capisco che citare Dante non faccia audience. Così Nichi Vendola. C'è da dire che la critica più tenera, se volete, viene da una persona a cui ti aspetteresti critiche un po' più dure. Invece Daniela Santanchè, intervistata dalla Stampa, dice: benvenuto piccolo Antonio Tobia. La premessa di Daniela Santanchè è: rimango contrarissima alla pratica della maternità surrogata, ma penso che Tobia non debba pagare le colpe dell'incapacità della politica. Ogni nascita è un evento di gioia e io do il benvenuto a Tobia. Piuttosto me la prenderei con chi in Italia favorisce gli insulti a Tobia. E sono quelli che vogliono la stepchild e mettono Tobia in questa condizione. Ecco, qui poi entra in una considerazione politica e dice le cose che ti aspetteresti da Daniela Santanchè. Ma insomma, comunque dice: non prendiamocela adesso, e su questo ha totalmente ragione, con questo bambino che è nato e non ha alcuna colpa. Sia il Messaggero sia il Giorno vanno anche a capire cosa significa questa pratica definita in maniera brutale dell'utero in affitto, insomma la maternità surrogata. Costi fino a 200.000 euro negli Stati Uniti, viaggi per diventare genitori, quella che è stata definita ultra prostituzione dal ministro della salute Lorenzin, gesto d'amore invece dai singoli o dalle coppie che grazie alla maternità surrogata coronano il proprio desiderio di genitorialità. Insomma, ogni anno, fa sapere il Giorno, nascono 350.000 bambini almeno frutto di tecniche di inseminazione. Nella gestazione conto terzi, i gameti da cui si origina l'embrione possono derivare sia da donatori esterni sia dagli aspiranti genitori. Ovviamente una casistica varia e prezzi che variano un po' in tutto il mondo. In questo caso Vendola è andato negli Stati Uniti. Vabbè. A proposito di Stati Uniti, una notizia che non c'entra niente, ma viene dagli Stati Uniti, arriva a coinvolgere anche l'Italia, allora forse ci siamo, aprirà presto il primo Starbucks a Milano. Peter Scapè si è svegliato, che vuoi un caffè, un frappuccino? Starbucks, sapete che c'è una polemica anche su questo, perché sono anche accusati un po' in giro del mondo, Starbucks, sono visti un po' come questi grandi marchi, stile McDonald's, eccetera. Parla l'amministratore delegato di Starbucks, lo fa con il Corriere della Sera, Daniela Polizzi, lo intervista: è un mio sogno da 30 anni. Apro in Italia per imparare. Dal 1983, primo viaggio in Italia, dice Howard Schultz, studio la magnifica rappresentazione teatrale che va in scena ogni volta che in un bar viene servito un caffè. Non pretendo di insegnare un rito parte della storia italiana, ma vorrei solo rendere omaggio a Milano. E racconta del primo Starbucks che aprirà a Milano a breve, racconta che tutto affidato ad Antonio Percassi, ex calciatore, patron dell'Atalanta e soprattutto guru degli shopping center, come viene definito dal Corriere della Sera, prima a Milano, ma poi si pensa già a successive aperture. Verona e Venezia potrebbero seguire a ruota. Una pagina di intervista all'amministratore delegato di Starbucks, pagina 27 del Corriere della Sera, lo trovate. Mentre questa non è da mani sul volante, ma quasi, Salto a parlare di politica per raccontare con Diodato Pirone, a pagina 6 del Messaggero, ecco come le regioni e anche le province a statuto autonomo, tipo quella di Bolzano, aggirano i tetti di 240.000 euro. Sapete che è il tetto di massima retribuzione della pubblica amministrazione. Da Bolzano alla Sicilia si moltiplicano i casi di compensi che superano questa quota. Per esempio, la provincia di Bolzano, scrive il Messaggero, nelle scorse settimane ha cercato di imporre il tetto di 240.000 euro a partire dal 2016. La proposta ha suscitato una sorprendente rivolta di massa. È perché si è scoperto che nel settore sanitario vengono pagati ben 51 stipendi superiori a 240.000 euro. Possibile che accada? Possibile. Perché a questi manager si affiancano fior di primari che ha minacciato di fare in massa le valigie. Risultato, la provincia di Bolzano ha deciso di imporre un tetto ai dirigenti pubblici, ma rialzandolo del 20%, arrivando quindi a 288.000 euro. Così una piccola deroga. In Campania, in Sicilia, insomma, ovunque c'è il grimaldello per superare il tetto dei 240.000 euro, maxi stipendi nelle regioni e anche nelle province a statuto autonomo, così racconta il Messaggero. Ma invece oggi l'articolo che mi fa pensare della giornata ci porta un po' lontano, ci porta in Zimbabwe, dove Lorenzo Simoncelli racconta tutto sulla stampa. A pagina 15, il presidente Robert Mugabe ha festeggiato i 92 anni, evviva evviva, con una bella torta, evviva evviva, fatta a forma di Africa, e una serie di festeggiamenti, evviva evviva, nella sua città natale, vale a dire, no, non è la città natale, comunque a Masvingo, spendendo 800.000 dollari per la festa di compleanno, 800.000 dollari in un paese dove si vive con una media di 2 dollari al giorno, questo racconta la stampa. Eccolo qui, nello Zimbabwe alla fame, nello Zimbabwe in una zona, Masvingo, delle più colpite dalla siccità, dove manca l'acqua, gli animali muoiono disidratati, le riserve di mais scarseggiano, non c'è cibo, il presidente Mugabe si fa una bella torta e dei bei festeggiamenti da 800.000 dollari. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, the best newspaper reader. Vabbè, insomma, step shy. Al Pishon. Va bene, grazie caro ascoltatore, al 349-238-6666 sono le vostre sigle, i vostri WhatsApp, i vostri messaggi, quello che volete, insomma. Allora, le tasse, parliamo un po' di tasse, perché le tasse, o meglio il taglio delle tasse auspicato da molti italiani, torna sulle prime pagine dei giornali, e oggi Repubblica apre, racconta del piano del governo per ridurre le tasse e stimolare la crescita. Renzi punta a una doppia strategia esterna e interna, dice Repubblica. Il premier è pronto a portare la questione di un taglio fiscale nel 2017 sul tavolo dei leader del Partito Socialista Europeo in vista del Consiglio Europeo del 17 marzo. Sul fronte interno, invece italiano, si lavora per un taglio dell'IRPEF già fissato per il 2018, che si spera di anticipare al 2017. Per farlo, però, è necessario sfiorare il 3% del rapporto deficit-PIL, che sapete sono i parametri di Maastricht che bisogna rispettare a livello europeo. C'è anche allo studio la riduzione di 6 punti del cuneo fiscale, con un impatto da valutare sulle pensioni future. Vabbè, è chiaro, qua siamo agli annunci, ma questo è quello che viene annunciato da Repubblica. Valentina Conte poi spiega nei dettagli a pagina 3: sforbiciare i contributi, più soldi in busta paga, l'altra carta del governo. Tagliare le tasse significa mettere più soldi in busta paga riducendo il cuneo fiscale, ovvero la differenza tra costo lordo e netto del lavoro. Il governo ci pensa da tempo, ora potrebbe accelerare. C'è un piano formulato dall'allora consigliere economico del premier Tommaso Nannicini, che nel frattempo è stato promosso a sottosegretario. Consiste nel tagliare di 6 punti il cuneo fiscale dei neoassunti, 3 punti a carico del datore e 3 punti a carico del lavoratore, per sempre. Questo è il piano. Ovviamente, ripeto, siamo agli annunci, al piano, vedremo se questo piano si concretizzerà. Intanto il vice ministro dell'economia Morando viene intervistato dal Corriere della Sera da Mario Sensini a pagina 15 e annuncia aumenti IVA bloccati per 3 anni. L'aumento dell'IVA congelato fino al 2019, poi taglio dell'IRES di 4 punti già finanziato dal bilancio pubblico, alleggerimento dell'IRPEF, o un nuovo taglio al cuneo fiscale che si potrebbe anticipare anche di un anno se ci fossero le condizioni. Questi gli annunci in questa intervista. Morando parte da un problema, di 7-8 miliardi, è vero, ne stiamo discutendo, dovremo in qualche modo compensare questi mancati introiti. Questo impegno sul debito dobbiamo assolutamente mantenerlo. Vorrei ricordare, dice Morando, che il governo Renzi ha già ridotto le tasse di 14,5 miliardi, anche se gli 80 euro figurano contabilmente come una spesa. Nel 2017 scatterà una riduzione di oltre 4 punti delle tasse sulle imprese, una manovra che vale almeno 3 miliardi di euro l'anno. Ma dovremo, certo, proseguire su questa strada. Insomma, fa tutti questi annunci, questo racconto di quelli che sono i piani per quel che riguarda le tasse, il vice ministro Morando. Mentre ancora ci si accapiglia per le amministrative, Roma certamente la città che viene guardata con maggiore attenzione, dove c'è anche maggiore confusione, soprattutto nel centrodestra. Che sta succedendo? Succede che Salvini ha fatto le primarie, cioè ha chiamato i romani ai gazebo e oggi alle 13 fa annunciato la conferenza stampa, probabilmente annuncerà chi è il vincitore di queste primarie. Stavo per dire di questa che Berlusconi ha definito una pagliacciata testuale. Lo scrive La Stampa con Amedeo La Mattina, pagina 6. Berlusconi gela Salvini. Matteo sta diventando inaffidabile. Berlusconi aspetta di sentire Salvini, che ha convocato la conferenza stampa alle 13, e boccerà, probabilmente Salvini boccerà definitivamente la candidatura di Bertolaso a Roma per sponsorizzare il nome più votato nei gazebo, ma Berlusconi ha già detto è una pagliacciata e ora Salvini è inaffidabile. Effettivamente molti giornali raccontano che qui potrebbe tramontare di fatto il centrodestra, almeno per quel che riguarda Roma, tanto che guardate come c'è tanta confusione sotto il cielo romano, tanta che Giorgia Meloni ora starebbe pensando di candidarsi, lei che ha detto non ce la posso fare, sono anche incinta, quindi una campagna elettorale comporta grande sforzo dal punto di vista fisico, non me la sento. Ebbene, invece ora Meloni riconsidera il suo no alla corsa. Dice: mi hanno lasciata sola, ma sta valutando la candidatura a sindaco in extremis, nonostante le difficoltà, il clamore del gesto, tutto ciò per far ritrovare unità alla coalizione che si è spaccata su Bertolaso. E dunque Giorgia Meloni potrebbe addirittura candidarsi per far ritrovare una sorta di unità nel centrodestra, e questo ovviamente staremo a vedere. Secondo il Messaggero, Bertolaso bocciato dal referendum di Salvini, questa è una certezza che il Messaggero mette nel suo bianco. La certezza definitiva dovrebbe essere poi oggi alle 13 con l'annuncio. Ma siamo alle ore di Meazza in punto, di Mauro Meazza, il povero affranto Mauro Meazza, che ormai c'ha solo un punticino di vantaggio. Il gol di Bonucci, Juventus in vantaggio. Vabbè. Buongiorno. Buongiorno anche a te, caro Mauro. Allora, tutto il calcio minuto per siete minuto. Ancora davanti a noi, sì, siete sì. Ancora davanti a noi. Ma perché, sì. Cos'è successo? No, niente, non ti preoccupare. No, abbiamo vinto l'Oscar con Morricone. Ecco, Morricone ha vinto l'Oscar, mi fa molto piacere. Sì, DiCaprio ha vinto l'Oscar. Sì. A Morricone, sì, beh, come statuine devo dire che forse anche noi abbiamo dato il nostro però ieri esatto. Sera, quindi... Va è bene, la sera no, delle statuine. Non, sera. Non mi distrarre con queste pinzillacchere, perché ti devo segnalare tutta una serie di cose del Sole 24 Ore. Hai l'agenda? Prima di eccola tutto. Qua, eccola. Oh, qua. Bravo, perché già devi segnalare che domani, mm-hmm. Domani, non oggi, domani seconda uscita dei tuoi soldi, il corso di educazione finanziaria, la seconda uscita dedicata ai conti correnti. Fai attenzione, caro Alessandro, perché esce domani in edicola e poi non c'è più, cioè devi andarci domani. Non so, solo domani, chiaro, chiarissimo. Hai segnato? Segnato. Bravissimo, perché poi domani sarà una giornata importante anche per il fisco, so che mm-hmm. Ti sta appassionando questo tema questa mattina, quindi ti segnalo l'editoriale del Sole 24 Ore di oggi, per domani il ministro Padoan e Rossella Orlandi, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, presenteranno i risultati del 2015. Noi intanto anticipiamo che Equitalia ha migliorato i suoi incassi, ha superato gli 8 miliardi. È vero. Anche se tu ti sei tenuto in tasca i tuoi due urini, come vedi, altri hanno onorato i vari debiti. Oh, ti voglio anche dire, parliamo sul Sole 24 Ore di oggi di società tra professionisti. Sì. Società tra professionisti, sai che si possono costituire, ma se ne fanno pochine. Infatti siamo andati a controllare e effettivamente siamo sotto le 1000 unità, non sono proprio tantissime. Tra l'altro della cosa si parla anche oggi a Milano in un convegno che si fa a Palazzo di Giustizia, ma trovi tutti i particolari sul Sole 24 Ore di oggi nelle prime pagine, dove poi mi sembrava che tu avessi citato uno stipendio prima. Sì. Da 250.000 euro. Oltre i 240.000 euro della pubblica. Ecco, allora vorrei dedicare questo stipendio alla pagina invece sui voucher, quelli da 10 euro l'ora. Ah beh. No, mi sembra anche per contrasto, insomma. Segnalo questa inchiesta nostra, che presentiamo oggi su Sole 24 Ore, c'è questa crescita molto imponente dei voucher che sono arrivati a 115 milioni di voucher venduti nel 2015. Tutti i particolari, provincia per provincia, dove sono aumentati di più e di meno, li trovi oggi a pagina 8. Avrei ancora un momentino prima che tu debba fare altre amenità calcistiche? No, figurati, ma ecco, mi sembrava. Ecco, ti voglio segnalare che come tutti i lunedì l'esperto risponde. Oggi, tra l'altro, ti parliamo anche di canone RAI. Sì. Le prime indicazioni che si possono trarre, come sai, poi un giorno arriveranno dei provvedimenti attuativi, ma intanto quello che è sicuro è che devi pagare, Carolina. Devi pagare. Hai un televisore? Sì. Allora vedi. Fortunatamente anche più di uno. Non puoi sostenere di usare solo la radio, questo ti volevo dire. E poi ti parliamo, tra le altre cose, nelle pagine di norme e tributi, di prestito vitalizio ipotecario. Una cosa che non riguarda proprio te, perché è per gli ultra 65 anni, ma è una norma che, come dire, gironzola da tempo. Adesso e potrebbe interessare presto te. Dal 2 marzo, ma sei sempre così carino e gentile. Vuoi rimettermi anche l'audio di Bonucci di ieri sera? No, di Bonucci, l'abbiamo già fatto sentire, però... Sentiamo quell'altro. Però allora. Ce ne sarebbe un... Vabbè, insomma, questo vale anche a me, vale anche per me. La capolista non è la tua squadra. No, infatti, ho detto vale anche per me. Infatti. Esatto, salutiamo insieme la capolista, io saluto invece tutti gli ascoltatori, caro Alessandro, e soprattutto, come ogni giorno da lunedì a venerdì, traffico! Ciao Milan, vado a scuola con mio papà. Martino. Ma Martino, ma un grosso abbraccio, evviva, vai a scuola, mi raccomando, ai maestri che ti dicono fai le capriole, divertiti, dici no maestro, prima faccio un po' di tabelline, poi faccio le capriole. Vabbè, dai, la polemica sul basta compiti che porta avanti, mi ha scritto anche Alex Corlazzoli, grande abbraccio anche a lui, maestro, blogger, scrittore del Fatto Quotidiano, mi ha detto ma no, i compiti, bisogna più poesia, più cinema, più... No, più compiti, ma io non faccio il maestro, Alex sì, e ne saprà certamente meglio di me. Io faccio solo il papà, ahimè. Allora, un po' di politica estera. Hillary Clinton è sempre più vicina alla nomination, avendo vinto contro Sanders in South Carolina. Ora c'è il super martedì, cioè domani, e tutto ciò potrebbe consacrarla, perché domani si vota nelle primarie in diversi stati, e potrebbe arrivare la consacrazione a Hillary Clinton come candidata alla Casa Bianca per i democratici. Verso la nomination, tutti i giornali dedicano paginate a questo, c'è addirittura l'apertura dell'Unità, che fa un vero e proprio endorsement. Go Hillary, questo l'Unità in prima pagina. Tra l'altro, a proposito dell'Unità, devo fare una parentesi, non ho trovato un articolo molto positivo sull'Unità, questo sul Corriere della Sera. Si racconta di un rilancio dell'Unità che è andato un po' a rilento e di buco nei conti dell'Unità. e anche di irritazione di Renzi verso i circoli del PD. Questo perché, lo racconta il Corriere a pagina 13, perché Renzi aveva lanciato il modello della nuova unità con un circolo, un abbonamento. Essendo 7.000 circoli del PD, si pensava quindi con 7.000 abbonamenti di rilanciare l'unità. Beh, non è che tutti i circoli abbiano seguito la linea renziana e quindi i conti non sorridono e l'unità si ritrova, scrive il Corriere, con un buco di 200.000 euro al mese che fanno alla fine dell'anno un rosso di 2,4 milioni di euro. Insomma, quindi una tormentata storia dello storico quotidiano che potrebbe riproporsi con problemi. Vabbè, torniamo alla questione americana, dicevo così perché è il titolo di prima pagina, Go Hillary dell'Unità. In realtà dopo la quasi candidatura e consacrazione per Hillary Clinton, dall'altra parte invece c'è qualche problemuccio per Trump. Che cosa ha fatto Donald Trump? Ha ritwittato una celebre frase di Mussolini, che peraltro non è proprio di Mussolini, ma è diventata una delle frasi storiche mussoliniane, cioè meglio un giorno da leone che 1.000 da pecora o 100 da pecora, che dir si voglia. E, è stato fatto cadere proprio nel tranello, perché un blog che si occupa di gossip ha realizzato un account Twitter con frasi di Mussolini per vedere se Trump sarebbe stato così stupido da ritwittarlo. Ebbene, dice questo blog, è stato stupido, lo ha ritwittato. E dunque polemica perché Trump ha ritwittato una frase di Mussolini, tra l'altro dicendo mi piaceva questa frase e dunque l'ho ripetuta. E è il titolo di prima pagina del giornale, mentre l'unità su Hillary Clinton, il giornale, il duce corre per la Casa Bianca, visto che Trump cita Mussolini. Va bene, a proposito di politica estera, sono molto interessanti e inquietanti alcuni articoli che ho trovato, uno sul Corriere della Sera, le reclutatrici del califfato, pagina 17 del Corriere, Marta Serafini racconta la storia di due militanti islamiche che agganciavano tramite Skype le adepte italiane. Partivano a parlare anche di popcorn, poi si parlava di fede, si arrivava al reclutamento. E così, per esempio, sarebbe stata reclutata Maria Giulia Sergio, alias Fatima, la 28enne di Torre del Greco, partita per la Siria e da allora latitante, di fatto, in Siria. Si racconta la storia di Bushra Aik, la maestra di Maria Giulia Sergio e forse reclutatrice di altre italiane. Questa donna si è trasferita in Arabia Saudita dall'Italia e da lì, con un blog che ora è chiuso, ma insomma con altri alias a volte viene riaperto, cerca di reclutare donne per l'ISIS. A proposito di reclutamento, la storia che c'è sul giornale invece è davvero inquietante. Serenella Bettin lo racconta, pagina 6, reclutava jihadisti per l'ISIS con il sussidio della regione. Succede a un macedone, Ayhan Veapi, fermato venerdì mattina ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Si è scoperto che da 2 anni percepiva l'assegno di disoccupazione della regione Friuli Venezia Giulia, 500 euro al mese, e utilizzava, no, non è che utilizzava questi soldi per vivere qui, e intanto faceva reclutamento per l'ISIS. Capite che bisogna stare discretamente attenti. Veniamo alle questioni più di cronaca. Beh, stasera c'è la partita del Napoli, brutta disavventura per Lorenzo Insigne, che ha subito una rapina a mano armata e tutti i giornali raccontano, era in auto con la fidanzata, gli hanno rubato un Rolex, gli hanno rubato diamanti, 800 euro in contanti. Ragazzi, ma come si viaggia in macchina adesso? Vabbè, il Rolex va benissimo, 800 euro in contanti, ancora diamanti immagino l'anello della fidanzata, non lo so. Comunque gli hanno puntato la pistola in faccia e questa non deve essere certo una bella esperienza. Era il vomero e tra l'altro c'è stata anche la beffa del "e dedicaci il prossimo gol" da parte dei due che l'hanno rapinato. Sia il Corriere sia anche il Messaggero, Napoli rapina con dedica per Insigne, beh, non deve essere stata una bella dedica da ricevere. Il fuoriclasse in centro con la moglie, minacciato con la pistola, consegna il Rolex e i ladri dicono "alla prossima partita segna per me". Tra l'altro non è la prima volta di rapine a giocatori del Napoli. In passato era arrivata anche l'antimafia a indagare su episodi analoghi ai danni ai calciatori partenopei. Ma Vabbè, c'è anche grande polemica per Carlo Cracco. Cosa ha fatto a MasterChef? Ha cucinato il piccione. Non il piccione, quelli che trovi, che ne so, a Milano in Piazza del Duomo, il piccione d'allevamento. E questo per alcuni animalisti, un'associazione, è reato, perché fauna selvatica, dunque specie protetta. Carlo Cracco è stato denunciato dagli animalisti. Eccolo qui il titolo del giornale: tiro al piccione su Cracco, lo chef denunciato dall'associazione AIDA per aver cucinato il volatile a MasterChef. È fauna selvatica e dunque protetta. Ma Carlo Cracco si difende, in realtà è da allevamento, è un piatto della tradizione. Vabbè, sta di fatto che c'è la polemica sul piccione di Cracco. Mentre siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua sul Fatto Quotidiano, in prima pagina e continua pagina 3, Stefano Disegni che racconta di avere ciucciato il lecca lecca con il Papa come simbolo. Una delle cose che si può comprare al giubileo, il caramellone con Papa Bergoglio, con lecca Papa, il Vaticano è molto più dolce. Ma chi se ne frega!